Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Altro appuntamento con l'Adico di Mestre, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Anche oggi con noi abbiamo il presidente Carlo Garofolini. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, l'argomento di oggi è un argomento assolutamente importante, ne avevamo già accennato, quello della stangata sulle SIM, dove si voleva fare il prelievo mensile invece di farlo veramente mensile, cioè di 30 giorni o di 31, ma farlo di 28 giorni, quindi 4 settimane. C'è qualche cosa che dobbiamo dire? Sì, allora innanzitutto su questo fenomeno delle 4 settimane l'Adico è sempre stata impegnata in prima linea a denunciare al garante delle comunicazioni come certe compagnie, e la Wind dallo scorso mese di marzo e la Vodafone da giugno, stanno applicando degli addebiti sulle SIM non con cadenza mensile ma 28 giorni. Questo cosa significa? Che nei 28 giorni la trattenuta, pensiamo chi ha quei 10 euro al mese, 7 euro al mese, per avere non so, i famosi 10-50 minuti, eccetera, a debito avviene non più quindi su 12 mesi, ma alla fine arriva su 13. Quindi un aumento che si traduce per i consumatori del circa 7%. Quindi questa cosa ovviamente non è proprio giusta, si parla di mese ma il mese non c'è. Sì, si parla come hai detto di mese che non c'è, noi abbiamo subito denunciato questa cosa al garante, il quale ha aperto una pratica nei confronti di queste compagnie, quindi segnalando all'antitrust questa pratica ritenuta come dire scorretta, perché riguarda soprattutto anche clienti che hanno già un contratto di cui per pubblicità acquistano con la promessa di avere un addebito ogni 30 giorni, ogni mese, e invece in realtà è su 4 settimane, ma andrà anche a rivolgersi nei confronti di TIM, la quale aveva già avviato anche questa compagnia l'adeguamento alle 4 settimane, ma sostanzialmente ha bloccato un po' questa trasformazione sospendendola per 60 giorni in attesa appunto che il garante riceva le adeguate informazioni della TIM per capire se ci sono delle violazioni degli articoli 70 e 71 delle comunicazioni e quindi capire se ci sono gli estremi anche per aprire un'indagine e quindi un'eventuale sanzione. Ecco, quindi è una segnalazione che noi facciamo e che continueremo a tenere monitorata. Tra l'altro, dato che parliamo di telefonia, c'è questa notizia della scorsa settimana, no? Che verso la fine della scorsa settimana c'è stata la fusione tra la Wind e la 3, quindi nasce un nuovo grande distributore di telefonia, adesso sono 3 praticamente, questa fusione tra Wind e 3, poi c'è Telecom e poi c'è Vodafone. Questo porterà dei vantaggi ai consumatori secondo te? Allora, innanzitutto con questa fusione nasce il più grande colosso di telefonia mobile in Italia con un bacino di utenti di oltre 30 milioni di persone. Soprattutto noi ci auguriamo che questo porti dei vantaggi, anche se il sospetto nostro è che meno compagnie ci sono, meno concorrenza c'è. Ci auguriamo che su questo che ho appena detto possa essere smentito, perché comunque riteniamo che insomma, un colosso che possa avere una posizione dominante possa porsi anche con delle tariffe più convenienti rispetto a chi magari è più piccolo. Saremo, come hai detto te, a vigilare su quello che saranno le prossime fasi, ci auguriamo che non ci sia una perdita occupazionale, ma ci sia invece uno sviluppo della società che possa garantire, come ha sempre fatto, delle maggiori e migliori proposte rispetto a quelle in essere fino a poco tempo fa. Forse qualche posto di lavoro mi sa sarà possibile che venga a mancare in questo caso. La sensazione è che dobbiamo comunque stare attenti, nel senso chi aveva Windows 3 adesso forse si vedrà cambiare il piano tarifario? Guarda, io ti dirò Francesco che appena ho letto questa cosa ho pensato subito che questo possa portare a meno ripetitori e a segnali più forti, soprattutto così riducendo un po' questa esigenza che queste case hanno di riempire questi comuni di un sacco di antenne di un tipo rispetto di un altro. Certamente mi auguro che possiamo ricevere tutti quei vantaggi che ci stiamo augurando, perché riteniamo che insomma una società grossa così non abbia interesse a porsi in maniera diversa e deludere le aspettative dei loro clienti. Quindi insomma la speranza c'è. Poi, come ho detto, cominciamo a vigilare, già il fatto dei 28 giorni che abbiamo parlato è una conseguenza delle segnalazioni che come l'Adico e tanti altri fanno ai garanti per controllare un po' il comportamento di queste compagnie. Con l'aiuto di tutto e tramite noi, anche noi speriamo che insomma queste cose possano solamente offrire una varietà di prodotti sempre migliorativi ed innovativi. Va bene, insomma, grazie all'Adico che è sempre attenta a tutto ciò che è vicino a noi, che ci tocca proprio anche nelle tasche, e quindi continueremo a monitorare il discorso sulla telefonia mobile e anche su quella fissa, come abbiamo sempre fatto. Grazie all'associazione difesaconsumatori.it, questo è il sito che dobbiamo sempre andare a vedere, perché si trovano sempre anche molte notizie interessanti. Grazie a Carlo Garofolini che abbiamo disturbato anche oggi nonostante il suo periodo di vacanza. Per me è sempre un piacere, Francesco, mi auguro che anche te riesci a fare qualche giorno, e colgo sempre l'occasione per salutare tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.